giorno me ne aiuto, ad acqua la fontanella. Un giorno me ne aiuto, ad acqua la fontanella. Trovai tre giovani belle, trovai tre giovani belle che lavavano in panna. Io la capa e la più bella di tutto, io la capa e la più bella di tutte, la piglia in mila me, la piglia in mila metto sul mio cavallo. Yeah.